Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amiche e cari amici, Radio Alma Bruxellando, benvenuti a tutti voi. Mary D ai microfoni, in compagnia, come tutti i martedì, di Danny M. Regia, Georges Laurent e Fiordaliso. Come tutti quanti avranno anche potuto ascoltare da quella che era la trasmissione che ci ha preceduto, l'Italia è stata scossa da un evento improvviso, quale può essere questo sisma che ha scosso e sconvolto le vite di tante famiglie. Come probabilmente già molti di voi avranno anche potuto notare, Bruxellando e la redazione culturale di Radio Alma e Radio Alma in particolare, in generale, si unisce quindi al dolore che purtroppo sta vivendo un intero paese. Noi ci auspichiamo che presto, insomma, la situazione possa ritornare ad essere quella di prima, anche se così sicuramente non potrà essere. Quindi ci sembrava opportuno questa sera ricordare le vittime e ringraziare tutti coloro che stanno cercando, insomma, di prestare soccorso, aiuto, insomma, di essere oggi vicino a quanti sono sfollati, a quanti, insomma, vivono una condizione estremamente disagiata. Non possiamo fare molto da qui, però ovviamente un saluto e un sostegno, e come abbiamo scritto anche sul nostro blog, probabilmente la musica in questo momento può essere e sembrare veramente una voce di speranza. In onore di coloro i quali non ci sono più, noi abbiamo pensato ad un piccolissimo momento musicale, avevamo pensato anche un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio, però probabilmente in radio il silenzio non rende poi effettivamente questo momento. E Giorgio, non so se magari vuoi ancora aggiungere qualcos'altro, scusate, la voce è anche un po' commossa, altrimenti inviterei Danny M. Vai Giorgio, vai. No, è che stranamente questo terremoto mi ricorda quello del 76, in cui ero piccino, ma che ho vissuto per una serie di coincidenze molto molto da vicino, e così come ho vissuto anche l'altro terremoto di qualche anno fa, che era venuto l'inverno, e ogni volta la forza della natura ci spaventa e ci fa rendere conto di quanto piccoli siamo, di quanto sottili siano i fili che ci legano alla vita. Come Radio Alma mi unisco a quello che ha detto Mary D e cerchiamo di essere vicini per quanto possiamo, nel modo in cui riusciamo a fare qui da lontano, da Bruxelles, alle persone che hanno perso la vita, alle persone che hanno perso la vita a volte anche in un modo non molto comprensibile, come quei ragazzi giovani che sono morti nello studentato, che è una cosa che grida vendetta. Beh, che io in questo momento sto pensando a loro, ai greci che sono arrivati a studiare all'Aquila e all'Aquila hanno perso la vita. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in, and your footsteps will always fall. Eccoci ritornati alla nostra Radio Alma. Una puntata sottotono, per forza. Una puntata sottotono, una puntata che già immaginavamo essere un po' diversa dalle altre. Sapete che Bruxellando cerca di rispettare un po' in un modo o in un altro anche quelli che sono gli eventi dell'agenda, come in tanti saprete, il calendario cristiano cattolico festeggia la Pasqua questa domenica, quindi ci tenevamo a fare la puntata magari un po' più sullo spirituale, quindi insomma magari il tema questa sera può essere in tono col sottotono di un intero paese. Avremo tra l'altro anche un ospite in studio, un giovanissimo, non so effettivamente come definirlo, ma direi Gianfranco Franchi, il quale si racconterà, perché ha una bella storia alle spalle. Pensate, lui si definisce giuliano, romano e istriano, per cittadinanza monteverdino. Quindi magari è curioso, chiederemo a Gianfranco, insomma, di raccontarci. Ha già scritto tanto, giovanissimo, 31enne. E con lui cercheremo di toccare tutta una serie di tematiche, però vorrei che fosse lui a raccontarcele in prima persona. Aspettando magari Dani M dalla regia, che già vedo pronto col telefono, ne approfitto per ricordarvi qualche evento della nostra. George, no, ti vedevo già lì, dico. Mi muovo. Ti stai muovendo? Allora, giovedì, quindi tra due giorni, per quanti saranno qui a Bruxelles, saluto intanto Paolo, che è appena arrivato, è giunto nei nostri studi. Questa sera senza Stefano, Ciao. Mi sembra di capire. Stefano questa sera si dà ad altre attività, allora io cerco di sostituirlo. Bene, allora Stefano. Speriamo che siano attività degne. Sicuramente, conoscendo Stefano. Allora, caro Stefano, ti salutiamo e speriamo di rivederti, di trovarti la prossima settimana. Quindi, uno degli eventi, e probabilmente in tanti già lo avrete potuto notare, è il 27esimo Festival del Film Fantastico. Quindi immagino che sulla scia di quello che è stato anche l'anno del fumetto in corso, il film festival di quest'anno cercherà di attirare, come al solito, l'attenzione su tutta una serie di idee simpatiche che riguardano il mondo della fantascienza. Non ne sappiamo molto e infatti nemmeno gli organizzatori hanno voluto rivelarci i dettagli del festival, altrimenti magari avremmo evitato chissà di andarci. Per quanti volessero saperne di più, consultate il sito. In maniera molto curiosa si chiama BIF, probabilmente per tutte le F di Fantastic Film Festival, e quindi è www.bif.net. Quando? Dal 9 al 21 aprile presso Tour et Taxi. Sì, Tour et Taxi. Ebbene sì, e anche sul sito di Tour et Taxi potrete rinvenire più informazioni. Giorgio, no, volevi aggiungere qualcosa? Sì, che il festival è il film fantastico, nel senso appunto di legato alla fantasia. Del fantasy? Sì, non sappiamo se poi l'aggettivo ha anche altri significati. Insomma, questo lo vedremo alla fine del festival. Per quanti potessero andarci, ma c'è qualcuno dalla regia che sta facendo dei segnali, credo che ci sia qualcuno in linea. Sì, Gianfranco. Buonasera Marilena, ben trovata. Ben trovato, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Puoi sentire bene la mia voce? Decisamente, tu mi senti correttamente? Io perfettamente. Allora, a parte i problemi di sordità di Mary D, che insomma, quindi senti a tratti, ma è un problema di Mary D. Ciao Gianfranco, sono Giorgio Lorenzo. E sai, anche io mi sono ormai adeguata alle onde medie di Radio Alma, quindi sono a tratti. Allora, caro Gianfranco, raccontaci un po' di te, perché soprattutto mi ha molto incuriosito la tua definizione. Tu sei per sangue giuliano, romano, istriano, per cittadinanza monteverdino. Sì, monteverdino ti riferisce insomma a un quartiere qui di Roma che vive la sua popolarità in parte ai racconti di Pasolini, in particolare all'opera prima Ragazzi di vita, il secondo romanzo Una vita violenta. All'epoca Monteverde era una borgata, adesso è tutt'altro che una borgata, è diventata una sorta di Notting Hill romana, è un quartiere di artisti che ha ospitato il poeta Caproni, Nanni Moretti, la famiglia Bertolucci, Attilio e Bernardo, lo stesso Pasolini ovviamente, Gianni Rodari. E quindi io vengo un po' a rovinare questa magnifica tradizione, questo dal punto di vista della residenza. Ma dai, vieni a rovinare! Invece, le origini del sangue, parte della famiglia è da parte materna è istriana, sono esuli che insomma, per i fatti della seconda guerra mondiale, insieme agli altri 300.000 nostri compatrioti e concittadini, sono stati costretti ad abbandonare terra, case, mare e quant'altro, e hanno trovato ospitalità a Trieste. E invece da parte paterna sono romano, che viene da una famiglia di romani sposati con una triestina, di sangue in questo caso italiano e austriaco, e questo spiega quella curiosa commistione. Benissimo, raccontaci invece un po' di te, cosa già hai insomma scritto di bello e cosa bolle poi in pentola? In pentola bolle nasconde tanto, ma ti dico proprio intanto è uscito. Esatto. Allora, nel 2006 è uscita una prima raccolta di racconti che si chiama Disorder, per il foglio letterario di Gordiano Lupi. Nel 2007 è uscito un antiromanzo che si chiama Pagano, che è stato associato in parte a Bianciardi per La vita agra. E lo scorso anno, 2008, è uscita una raccolta di poesie che include 12 anni di lavoro, si chiama Lia Nempienza. Adesso il 20 aprile uscirà un nuovo romanzo per Castelvecchi, si chiama Monteverde, e il 7 maggio, 7-10, uscirà quello che è a quanto pare il primo studio europeo su tutti i testi dei Radiohead, la band di Oxford di Tom York, per Arcana. Questo è il quadro dell'edito e del prossimamente edito, e poi in lavorazione c'è dell'altro. C'è una raccolta di racconti che si potrebbe chiamare, il titolo è provvisorio, Il Dodo e il Dogaone, destinata a ripetere la lezione di Beckett, cioè per una poetica della sconfitta, Fail Again, Fail Better, sarebbe il sottotitolo ideale. E a seguire, nelle mie intenzioni, il più grande libro italiano contro il telefono e contro la telefonia. In che senso? Nel senso che credo che sia lo strumento che ha più danneggiato in assoluto l'intelligenza e la concentrazione dei nostri concittadini, perché è passato da strumento nato per veicolare comunicazioni punto a punto in condizioni di emergenza o di necessità a essere svago e infine a essere presenza periodica, spesso di richiesta nelle vite quotidiane e nel lavoro, e quindi è uno di quelle tecnologie che hanno alterato i nostri pensieri e la nostra concentrazione sul lavoro. È una cosa non da poco pensare che per migliaia di anni non abbiamo mai avuto nessuno strumento che intervenisse con tanta prepotenza e tanta imprevedibilità nelle nostre vite. E quindi sto scoprendo delle cose anche interessanti, a partire dagli scopritori veri del telefono. E poi proseguire con le applicazioni società per società, vedrai che verrà fuori un lavoro interessante. Cioè, se ben capito, tu sei contrario nella maniera più assoluta. Io credo in una comunicazione che debba essere differita, quindi gli sms ad esempio, le email o le vecchie lettere, perché consentono a chi riceve il testo, la comunicazione, il messaggio, di potersi dedicare e concentrare a quel testo in un momento in cui mentalmente è libero, è sganciato da questioni di lavoro, familiari o sentimentali o qualsiasi altra cosa. Invece il telefono, proprio tecnicamente, è una presenza forzata, coatta, una costrizione a deviare da un'attività o un pensiero. E questo secondo me ha avuto delle influenze stravaganti sull'evoluzione dell'intelligenza degli occidentali in primis. Cioè? La sensazione che ho è che questa capacità che abbiamo straordinaria spesso di passare da un argomento all'altro o di deviare rispetto a una linea, l'incapacità che stiamo dimostrando di pubblicare saggi ad esempio o studi analitici che sappiano essere monolitici, scientifici, poggiati su un'architettura solida, derivi anche tra le varie cose dal fatto che quotidianamente facciamo esperienza di lavoro fratturato, sminuzzato, spezzettato, quindi credo che una delle fonti sia proprio questa, cioè il fatto che siamo abituati al fatto che da un momento all'altro, che siamo in casa o che siamo al lavoro, adesso poi col telefonino figuriamoci, possiamo essere raggiunti, interrotti, disturbati e ci troviamo costretti a rispondere a. Sì, hai lanciato delle idee su alcune mi trovi d'accordo, su altre un po' meno, nel senso che dipende dall'uso che ne fai, al solito si potrebbe obiettare, no? Sì. Però pensaci bene, sei con la tua compagna, esempio scolastico, state passando un bel momento, oppure peggio ancora, stai discutendo di una questione pesante. Sei nel bel mezzo di una digressione, stai spiegando disperatamente o serenamente le tue posizioni e proprio in quel momento squilla il telefono di casa. Non rispondi, ma il tuo amico o la tua amica o il tuo parente che sta chiamando insiste perché vuole parlarti e ti chiama anche sul telefonino. E quindi tu senti prima l'interruzione del telefono che suona in casa, poi quella del telefonino, e in quel momento, che tu lo voglia o no, ciò che stavi dicendo, ciò che stavi comunicando ed era importante alla persona a fianco a te, è andato perduto. è stato contaminato, è stato intaccato, non è più lui, anche se tu ti sei opposto, no? A questa presenza costretta nella tua quotidianità, nel tuo privato. Pantarei, dice il grande. Pantarei, quindi tutto scorre, tutto cambia, ed è vero che se interrompiamo un'emozione, vecchi discorsi sulla pubblicità in televisione interrompono tutto. Però io, per esempio, che ho il telefonino, anzi adesso devo confessarlo, ne ho tre. Purtroppo ne ho tre, vabbè. Però non riescono mai a interrompere un'emozione, perché i miei telefonini si basano su un principio stabile e fermo, che hanno due modalità: all'aperto, quando devo sentirli, e silenzioso, oppure in riunione, oppure mi sto nascondendo, quindi non mi chiamate, nell'altra modalità. Quindi tutti mi chiamano, ma raramente mi trovano al telefono. Sì, però tu pensa al fatto che ogni tanto, magari anche se sotto la suoneria, sei portato a controllare quello schermo, il LED, che ti dice tot chiamate perdute, oppure tot messaggi in arrivo. Qualunque cosa sia, ormai è come l'orologio da polso. Però è interessante ricordare perché è nato l'orologio da polso. È un'invenzione nata in tempo di guerra, serviva per far sì che quelli che sparavano al nemico non fossero costretti, quando l'orologio era a taschino, no? A mettere la mano in tasca, a deconcentrarsi, a tirar fuori l'orologio, osservarlo. Quei secondi potevano essere fatali. Ecco l'invenzione dell'orologio da polso, no? A cosa andava incontro. Gianfranco, allora, onde evitare altrimenti di aprire un vaso di Pandora dal quale non riusciamo più a uscircene, raccontaci un po', magari, mi incuriosiva molto il titolo L'inadempienza, che tu hai pubblicato col Foglio Letterario nel 2008. Sì. Raccontami un po', insomma, il titolo è abbastanza interessante, ecco. Il titolo si riferisce al fatto che, in un certo senso, ho sentito in un momento della mia vita di aver mancato a un patto, una promessa scritta soltanto idealmente con la poesia, sia quella di restare fedele alla ricerca, alla sperimentazione e alla trascrizione di versi. C'è una parte di me che anni fa non ha proprio più avuto nessun tipo di stimolo e di forza e di fiducia nella scrittura di versi. Quindi io mi sentivo inadempiente nei confronti della poesia e poi in senso lato dell'esistenza. È curioso il fatto che la prima poesia di questa raccolta si chiami Il disertore. È una poesia scritta tanti anni fa, quando avevo 18 anni. Probabilmente c'è una parte della mia vita e della mia scrittura che si poggia su questa percezione di abbandono, di fuga nel momento cruciale, determinante. Questo spiega in parte il titolo. E poi all'atere possiamo dire che inadempienza tecnicamente è un termine burocratico, giuridico, contrattuale, e mi interessava molto scipparlo a quell'ambiente e a quel codice, a quei codici, per riversarlo in letteratura. Allora, bello, mi piace tanto, mi piace molto quello che hai detto, shipparlo al mondo giuridico, shipparlo al mondo giuridico, però importarlo, anche perché secondo me l'inadempienza invece è un valore anche positivo, che nel mondo giuridico non ha. L'inadempienza è sempre una cosa negativa, c'è l'inadempienza al di fuori, sì, shipparla e usarla come valore positivo. Poi mi piaceva molto la poesia che hai citato, Disertore, perché mi viene in mente una splendida canzone che diceva: io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso che diserterò. E che io ti rompo completamente. Il riferimento assieme a questa canzone è a Boris Vian. Sì, Boris Vian e Guccini in quel momento mi avevano suggerito di confidare in questo ruolo. Veniamo da una cultura qui in Italia che 60 anni fa insegnava a credere, obbedire e combattere, invece tutto a un tratto ci siamo accorti che il senso era dubitare, disobbedire e disertare. Il fatto che uno di questi tre verbi campeggiasse in apertura di una raccolta è una visione anarchica, ma a suo modo poetica, politica. Io ho ancora una domanda. E sempre curiosa di capire un po' l'evoluzione di un poeta o di uno scrittore. Quindi tu, se non sbaglio, hai esordito con Disorder nel 2006. Sì, c'erano state prima due piccole, non raccolte, ma laboratori di poesia, che poi sono confluiti nell'inadempienza e sono stati pubblicati quando avevo 24 e 25 anni. Però erano volutamente, insomma, non raccolte compiute con un principio e una fine organico, ma in un certo senso sbirciate nei cassetti, io li chiamavo per questo laboratori di poesia. Quindi sento come esordio vero Disorder in narrativa nel 2006, e l'inadempienza è il principio e la fine di un percorso in poesia intrapreso nel 93 e terminato nel 2006. Però insomma poi come spartiacco il Pagano nel 2007. Assolutamente, uno dei libri a cui tengo di più, perché è fondato in parte sull'espressione del territorio, e sulle meditazioni sul territorio, sulla scorta delle riflessioni de Benoist, di tutti i filosofi legati al comunitarismo, e in altra parte semplicemente sull'esperienza quotidiana che convince a credere che in una società che parla di cosmopolitismo e di globalizzazione sia stata smarrita la percezione corretta della realtà. La realtà è il territorio, è ciò che vedi e vivi tutti i giorni, ciò che conosci, ciò che hai affrontato, fronteggiato, nel bene e nel male, e ciò a cui appartieni. E quindi dopo l'inadempienza, Monteverde probabilmente in onore del tuo quartiere? A proposito di identità? Esattamente, e poi perché a questo punto è diventato quasi uno stato mentale. Monteverde a Roma non è centro e non è più periferia. Monteverde era nell'antichità la frontiera verso l'Etruria. Monteverde è la zona dell'ottavo colle, Gianicolo. Cioè, il colle che non era riservato ai riti consacrati, ad esempio, non era riconosciuto dagli antichi storici romani come parte della città, e noi viviamo qui in questa posizione che ci permette di guardare dal balcone di Roma la città, di stendersi, ai nostri piedi c'è Trastevere, che sentiamo un po' come un prolungamento, e però guardando a nord c'è la Toscana. È come essere romani e non esserlo, vivere in un paese di una cittadina di 200.000 abitanti che non ha più a che fare con ciò che di Roma è tramandato e raccontato, è un microcosmo a misura d'uomo, ecco, difficile crederlo per Roma, ma se uno riuscisse anche a lavorare in questo quartiere sarebbe come vivere, che so, a Parma. Bisognerebbe anche riuscire a comprarsi casa a Monteverde. Sì, beh, in questi anni è stata una speculazione abbastanza sinistra, però la sensazione a pelle, osservando il mercato immobiliare, è che i prezzi stiano precipitando, e credo che questa discesa sia in una fase iniziale, ma che sia relativamente irrefrenabile, perché quando si arriva a far pagare ai cittadini affitti immorali, no? Non dico l'acquisto, gente che deve pagare 1.100-1.200 euro netti al mese per 80 metri quadri più il condominio, io credo che abbiamo perso la percezione della realtà, considerando gli stipendi che danno in Italia in questo momento, sì, per cui non può durare così, o abbassano i prezzi radicalmente e definitivamente, oppure non ci saranno più affittuari. Toglimi la curiosità, Gianfranco, saltando di palo in frasca. Sì. Lancelot o Lancelot? Tu hai detto Lancelot, perché? Lancelot, perché dunque, in teoria dal punto di vista etimologico e fonetico Lancelot dovrebbe venire dalla Heilige Lanche, cioè dalla lancia sacra, per cui la trascrizione corretta, la pronuncia corretta dovrebbe essere quella, stando a quanto scriveva un filologo francese che si chiama Marc Calais. E poi perché tanti anni fa, quando un mio amico mi chiamò così, una notte particolarmente etilica, sbagliò forse volutamente da Lancelot in Lancelot, e quindi mi sono affezionato. C'è di più la versione, da una parte c'è la filologia, dall'altra c'è una serata goliardica tra amici, terminata con questo errore che però ha dato vita al mio pseudonimo. Ma quindi non tutti i mali vengono per nuocere poi? Allora, noi, come sai, ormai siamo quasi insomma addirittura all'arrivo di questa nostra intervista, però mi chiedevo, ma non so, c'è un saluto in particolare o qualche verso a cui tieni che vorresti condividere con i nostri ascoltatori? Sì, prende il libro. Intanto saluto tutti, saluto la comunità italiana in Belgio. Ah, grazie. Ovviamente con massima amicizia e solidarietà, e con l'invito per quanto possibile a restare in contatto e a confrontarci. Io sarei molto interessato, io sono anche consulente editoriale nella vita quotidiana, perché ovviamente di narrativa e di poesia non si campa facilmente. Sarei molto felice di ricevere testi di narrativa e di saggistica di nostri compatrioti che vivono in Belgio, perché credo che, come già accaduto in passato, la distanza e la lontananza dai territori di origine delle famiglie aiuti a cementare il legame con la letteratura e con la lingua italiana, e sono sicuro che in questo momento sta per arrivare qualcosa di buono da quella parte dei nostri connazionali che si sono trovati a vivere fuori e che hanno una patria che è la lingua letteraria, la letteratura. Assolutamente. Guarda, raccolgo molto volentieri questo tuo invito. Noi qui di Brussellando e la redazione culturale di Radio Alma in generale riceve molto spesso delle richieste, quindi se a te fa piacere, insomma, potremmo condividere dei testi e magari chissà, potrebbe venirne fuori un lavoro estremamente interessante. Quindi io lavoro per un gruppo editoriale che include tre marchi, che sono Castelvecchi, Acana ed Elliot qui a Roma. In primis per Castelvecchi, per cui se vorrete, insomma, sarò felice di divagliare, poi vi lascio l'indirizzo email e, insomma, assolutamente, guarda, con piacere. Quindi prima di salutarci, allora, quale brano vorresti leggere e condividere con i nostri amici ascoltatori? Leggo: sguardi insolenti e parole appese alla porta del silenzio, come desideri fragili e perfetti, l'anima senza più anima, ombra eclettica, la confusione rivela controllo, come piangere senza lacrime, sospiro, sospira adesso singolare, scarnificata immagine, spoglia il mio tempo e altera il mio spazio, non nasconderò altrove l'anima mia, confinata nel cristallo forse. Bello. Bello, avrei bisogno di leggerla oltre che di sentirla. Sì. Dei tempi di, la lettura ha dei tempi diversi dell'ascolto. Mi mandi quanto prima le copie cartacee, se non le ha già spedite, ma insomma confido che avvenga a breve. Poi naturalmente tempo poche settimane e conto di farvi avere sia Monteverde che il libro di Radiohead. Va bene, con piacere. Intanto possiamo sicuramente essere orgogliosi del fatto che siamo stati i primi probabilmente a parlarne in Europa. I primi in assoluto. Quindi almeno il piacere di poter condividere in anteprima europea e io direi anche globale questo tuo lavoro. Noi ovviamente ti auguriamo tanto successo e restiamo ancora in contatto. Ci tenevo anche a salutare Patrizia Garofalo, che è la persona che ci ha messo in contatto. Cara Patrizia, grazie e aspettiamo ancora dei tuoi suggerimenti. Intanto io saluto Gianfranco, davvero gentilissimo e squisito. Grazie a voi di cuore ancora. E restiamo quindi in contatto, come ci siamo detti, via email. Un'ottima serata e ancora in bocca al lupo. A voi tutti, grazie al lupo. Ciao, buonasera. Ciao. Sono gocce di memoria. Buonasera e benvenuti allo spazio musicale di questa sera. Oggi parliamo di diversi modi di intendere la rinascita in musica e lo facciamo, come al solito, con artisti molto diversi tra di loro. Questa sera non abbiamo il piacere di avere Stefano, che è in altre faccende affaccendato. Gli mando un saluto molto cordiale. Quando ho preparato questa puntata avevo in mente una serie di artisti che hanno segnato soprattutto gli ultimi anni. Un artista degli ultimissime puntate del nostro spazio musicale è Miles Davis, che con noi ha lasciato il segno della contaminazione di cui abbiamo parlato più volte. Oggi vi faccio sentire un pezzo che Miles registra su un disco del 67, molto interessante, un disco registrato a San Francisco in un club storico che era il Black Hawk e che è uno standard, cioè un pezzo tradizionale scritto e poi divenuto di grande successo di Thelonious Monk, grande pianista degli anni 40 soprattutto, ma poi 50 e 60. Il pezzo l'abbiamo già ascoltato in altra forma, ma essendo uno standard è interpretato in molte versioni ed è il pezzo più registrato in assoluto nella storia della musica jazz e si chiama Round Midnight. Ce lo facciamo sentire. Bene, questa era Round Midnight in una versione silenziosa e passiamo a un altro pezzo di sicuro simboleggiante una rinascita di un modo diverso di fare musica jazz, che è rappresentato da un gruppo di cui non vi abbiamo mai parlato, che sono i Bad Plus. Bad Plus sono un terzetto americano, tre ragazzi che usano strumenti acustici per suonare musica molto vicina per modelli compositivi alla musica rock, il che è piuttosto inusuale naturalmente. Cosa significa modelli compositivi vicini al rock? Vuol dire che usano il pianoforte un po' come se fosse una chitarra, usano la batteria in modo molto pesante, anche se non è amplificata come una batteria rock, con le tipiche con i tipici volumi e colori della batteria rock, e fanno delle composizioni estremamente vivaci e colorate. Questa che ascoltiamo è da un loro album di grande successo, di critica, che si chiama These Are the Vistas, della metà degli anni 2000, e si chiama Big Eater, The Bad Plus. Bad Plus, questo era da These Are the Vistas, Big Eater. Naturalmente avete sentito i colori molto, molto vivaci di questi ragazzi. Sì, è veramente molto vivace, è molto simpatica questa composizione. È un vivace soft o sbaglio? Cioè non è un vivacissimo magari, un vivace lento, andante. Sono un vivace lento andante... Sto facendo un'opera di interpretazione articolatissima in questa radio. Beh, sono ragazzi che non si fermano davanti a nulla, molto coraggiosi, che hanno avuto la capacità di innovare dal punto di vista del linguaggio e sono splendidi da sentire dal vivo, li abbiamo ascoltati dal vivo diverse volte negli ultimi anni, sono venuti veramente anche a Bruxelles qualche mese fa, ma ve li siete persi tutti. Sì. Ma ritorneranno. Non ce l'avevi detto però. Non me l'avevo detto, erano venuti per il Rotterdam Jazz Festival ad esempio, ma sono spesso in giro, sono dei nomadi. Va bene, i Bad Plus, a cui sono molto affezionato, ci portano a un altro artista a cui siamo molto affezionati, sia io che Stefano, ed è un altro Stefano Di Battista, un sassofonista di cui vi parliamo spesso perché è importante, uno dei solisti italiani più importanti in questo momento. Lo abbiamo ricordato per le collaborazioni, soprattutto quella forse più prestigiosa che ha più segnato la carriera di Stefano Di Battista, che è quella con Michel Petrucciani. E questa sera vi facciamo sentire un disco che ha una portata sinfonica, che parla di Roma, ed è Roundabout Roma. Lo ascoltiamo in un pezzo di cui poi vi dirò qualche cosa, che è Roma Antica, da Roundabout Rome, Stefano Di Battista. Stefano Di Battista, da Roundabout Rome. Il pezzo era Roma Antica, un'orchestrazione che avete sentito coinvolge una piccola orchestra sinfonica, che è quella degli Archi di Parigi. E Stefano Di Battista in questo disco riprende un modo di fare musica jazz che è risalente, che è importante, parte da Duke Ellington, che vi abbiamo già fatto sentire su queste onde radio, sì. E che parte da un solista per affiancargli una strumentazione sinfonica. Qui in questo caso gli archi, avete sentito un andamento molto ampio che permette poi al solista di sedersi su questo tappeto sinfonico e di spaziare. Era il sassofono di Stefano Di Battista. Visto che parli di Stefano Di Battista, quindi parli di un italiano, c'è stato molto recentemente un concerto di un altro italiano, tal Paolo Fresu, Paolo Frisio, raccontaci qualcosa, raccontaci qualcosa. Sei, intanto sei andato a vedere il concerto. Allora, confesso che non ho visto Paolo Frisio. Questa volta il concerto è stato venerdì ed è stato, mi dicono tutti, molto bello. Io ho già visto Paolo Frisio in diverse occasioni, ma l'avrei rivisto volentieri. Purtroppo venerdì non potevo. È andato il mio alter ego Stefano, che mi ha fatto un rapporto dettagliato ed entusiasta di un Frisio in ottima forma, che gli ha parlato molto dei suoi sforzi organizzativi del Festival di Berchidda, che invito anche chi ci ascolta a cercarsi su internet. È un festival di musica jazz italiana e non solo, che si tiene a Berchidda in Sardegna nel periodo più o meno natalizio. Se volete organizzare una vacanza natalizia originale quest'anno, andate a Berchidda a ascoltare dell'ottima musica jazz, a mangiare dell'ottima cucina sarda e sicuramente a conoscere dei musicisti molto interessanti. Allora, visto che abbiamo queste entrature, che abbiamo tutte queste notizie, ma sarà mai possibile avere Paolo Frisio in radio un giorno? A me piacerebbe molto. Noi siamo sempre felici di portare i musicisti a parlare. Se sarà possibile, sarebbe molto molto bello. Parliamone. Abbiamo un ultimo pezzo da farvi sentire, poi siamo in chiusura con lo spazio musicale di oggi. Ed è un pezzo che vi avevamo proposto senza poterlo fare sentire in passato, per cui oggi lo recuperiamo dal cilindro. Usciamo per un momento dalla musica jazz e torniamo alla scena più elettronica rock contemporanea con i Radiohead. Questo è un pezzo dall'ultimo album di cui abbiamo parlato, per la sua innovativa caratteristica di essere scaricabile gratuitamente da internet. Il pezzo si chiama Weird Fishes. Questi sono i Radiohead. Dedicato, che tutti i nostri teleascoltatori aspettano sempre a lungo. Spazio che arriva alla fine. Mi fai ridere. Lo spazio che arriva alla fine a lungo desiderato ed è lo spazio di Librangolo. Hai visto che è ritornata la sigla, altro che quella della settimana scorsa. No, va bene comunque. Quando ho sentito per la prima volta il tema della serata, che per me è un po' modificata verso la spiritualità, diciamo, della rinascita, progettavo di parlarvi di fantasmi simpatici, dei romanzi gotici inglesi, quelli di cui Jane Austen ci fa ridere nel Northanger Abbey, ma dopo ci ho ripensato. E infatti, per primo vorrei citarvi nella mente il Medioevo europeo, quando la spiritualità e la religione sembrava di impregnare ogni gesto. Il romanzo che secondo me fa sentire il meglio questa atmosfera, fa la cauta ricerca della verità e l'assolutismo religioso, è Il nome della rosa di Umberto Eco. Non c'è bisogno di tante presentazioni, la storia di Guglielmo di Baskerville con i poteri della mente riesce a scoprire anche quello che non si vede, comincia a srotolare i fili di una serie di delitti in un convento benedettino ed è conosciuto e amato da tantissimi. Dall'altro lato, cioè da un'altra ottica, invece ci sono dei tanti scrittori che prestano tantissima attenzione allo sviluppo spirituale dei loro personaggi. Fra di loro è anche Hermann Hesse, di cui quasi non oso parlare nella presenza di Maridì, che lo ama così tanto e gli vuole bene e quasi lo cita così di memoria. Quindi sarò molto breve. Siddhartha, e parlerei di Siddhartha in particolare, che è una ricerca spirituale, la via del principe verso il diventare Gotama, il Buddha. Un paio di perle delle lezioni imparate sul suo lungo cammino, che sono citazioni ovviamente. Dice per esempio che ho capito che avevo molto bisogno del peccato. Avevo bisogno della volontà, dell'ambizione, della vanità e avevo bisogno della più profonda disperazione per smettere di confrontarlo con un certo mondo da me desiderato, con una specie di perfezione da me voluta, per lasciarlo invece così com'è, per amarlo e appartenergli con gioia. Un altro pensiero: l'amore mi sembra di tutte la cosa più importante. Penetrare il mondo, spiegarlo, disprezzarlo può essere opera di filosofi. A me importa solo di poterlo amare, a me importa solo di poter considerare me, tutti gli esseri e il mondo con amore, ammirazione e rispetto. Ecco, il che secondo me fondamentalmente non è così lontano neanche dall'idea che è dietro il cristianesimo, diciamo. Comunque, passando un po' oltre, uno scrittore contemporaneo molto conosciuto ed attento alla spiritualità è Paolo Coelho, che già l'ho menzionato così tante volte che già ne avete, siete stufi. Però, chi? Scusa? Quello là. Comunque io non desisto, neanche se fate dei segni strani. Sai, in tema Pasquale, Coelho. Non demorde. Io non demordo. Eppure ci vuole qualcosa di sacrificale in Voglio dire, dai, altrimenti... Il ruggito del coniglio. Sacrifichiamo Paolo Coelho, scusa, in umido alla cacciatora. No, io non l'avevo detto, l'ha detto qualcuno in regia. Cosa dice il nostro grande... Ecco. E comunque... Paolo Coelho è diventato veramente famoso con L'Alchimista, che è un libro basato su una delle storie delle Mille e Una Notti, sul pastore che abbandona il suo gregge per andare in cerca di un tesoro promessogli in un sogno. Coelho usa la storia per trasmettere il suo messaggio più importante, ripetuto in quasi tutti i suoi libri. Quindi non è giusto negare i sogni e sacrificarli sull'altare di qualcosa ritenuto necessario. Seguendo i nostri sogni si rischia, ma non si cade, si impara e si sente la pace interna di chi sta facendo il suo proprio cammino e vivendo la propria vita. Ed il cammino è altrettanto importante quanto la realizzazione del sogno, che si dovrebbe vivere ogni momento come se fosse l'unico momento, che la vita ci manda dei segni per indirizzarci, ma che in genere si sceglie ad ignorarli. Ed ecco di nuovo, chiuderei il libriangolo con un paio di citazioni memorabili. Quando desideri una cosa, tutto l'universo trama affinché tu possa realizzarla. Che a volte non è che lo sentiamo così, Comunque, io non vivo né nel mio passato né nel mio futuro. Possiedo soltanto il presente ed è il presente che mi interessa. Se riuscirai a mantenerti sempre nel presente, sarai un uomo felice. La vita sarà una festa, un grande banchetto, perché è sempre e soltanto il momento che stiamo vivendo. E un'ultima. Nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni. Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Oh mio Dio. Sì, come momento di riflessione di questa puntata assai particolare di Brussellando, mi sembra che i nostri amici ascoltatori abbiano di che pensare, forse fino a Natale prossimo. Io però ho bisogno di fare questa cosa che... adesso, di cui verrete a conoscenza adesso, ed è che mi invento un ruolo. Ti inventi un ruolo? Sì. Da solo, così? Sì, mi invento un ruolo da solo. Protagonista in cerca d'autore? No. Nemmeno? George, basta che però non ti fermi sulla riva del fiume Pietra e piangi, No, non mi fermo sulla riva del fiume Pietra, non piango. e ho deciso che da oggi in poi conterò tutti gli errori di italiano che fa. Ma come se, ma guarda, siamo in periodo pasquale, ci siamo oggi detti, sono no? Stata proprio sul mio peggio, proprio devi cominciare oggi. Giorgio, sembri questa è la settimana della rinascita, sembri, la settimana del perdono. Dai. Sembri quelli della Jalappas che facevano sì, i sottotitoli a Sebastiano Lazzarone. No, era quella no, del vabbè, blob, no? Quello è, che raccoglieva. Quello è un lavoro enorme. No, è che io, cioè, da un lato sono così ammirato delle capacità, cioè una, poi una, ti sfido in ungherese, sì, eh? Una ungherese, un ungherese che si fa il librangolo di Brussellando in italiano, in ungherese, e quindi io dico, ma per smontare un po' questa cosa che sta diventando veramente insostenibile, almeno gli contiamo gli errori. Poi però oggi che è il suo giorno peggio, che è già un errore, poi ne ha fatti altri tre. Ecco, io, cioè, da un lato ha fatto tre errori, poi dall'altro fa metà degli errori, metà di un quarto degli errori che farebbe un romano cari classico. Cari amici, guardate che sono questa disperato. Sera io non so più cosa fare, no, cioè, mi sento veramente Fiordaliso, la tua presenza in questa trasmissione rende, fa di me una nullità, io mi sento depresso. No, non so, forse il tema della spiritualità non è piaciuto questa sera, forse non è stato trattato nel modo giusto. Scrivete a Giorgio Lorant, tiratelo su. Scrivete a Giorgio, veramente, scrivete a Giorgio Lorant, scriveteci a brussellando@gmail.com. Io saluto intanto quanti ancora ci hanno scritto questo fine settimana, ragazzi. Giorgio@giorgiolorant.com. Giorgiolorant.com. Scrivete, tiratemi su, io sono veramente depresso. Io vorrei sapere quanti italiani riescono a fare in italiano quello che fa lei, un quarto, più sufficiente, e a fare meno errori, ecco questo. Ma io farei subito... Allora... No, non ce la si fa, cioè è impossibile, capito? Quindi, ma chi l'ha conosciuta? Chi l'ha trovata? L'hai trovata tu? Maria? Ma sai, io sono specializzata in quest'opera di ricerca speciale. Sì, però tutti, abbiamo l'angolo del jazz, questi sciorinano nomi di tutto, nomi, luoghi, date, cifre, facce, date, aneddoti. Sì, Giorgio, io per affondare il coltello ancora, all'inizio di questa trasmissione eri tu il Bruxellopedia vivente, adesso... Io non so, vedi i ruoli veramente? Mi si sta, il mio succede? Ruolo si sta è la rinascita in atto? Stringendo, non lo so. Secondo me cosa accadrà quindi magari sabato notte? Incipiente senescenza. Incipiente senescenza, Giorgio, no! Ti prego. Incipiente senescenza. Giorgio, magari poi come passato sarà la Canuzzi e la dopo Calduzzi. Tre giorni poi risorgi, eh? Ma che una bella sabato notte, no? Sabato notte De notte, infatti sabato notte di solito mi risveglio un po'. Alle 10 arrivo cauto, come può confermare qualcuno. Soprattutto qui. In alcune feste tra angeli e demoni, a proposito esatto. Di... E poi verso l'una di notte, non sapevo come scatenare. Infatti mi dicevano i miei amici di aver visto un personaggio strano a una festa sabato sera con una maschera bianca. Un angelo, poi a quanto è andato pare, via no? Così sul nulla. È andato via perché gli angeli appaiono e scompaiono, non è che stanno non è che timbrano il cartellino. Mentre qualcun altro ha visto un diavoletto con delle cornine, una codina, un bellissimo papillon. E poi soprattutto mi hanno parlato bene di un DJ che ha animato la serata e che ha attirato la polizia. Ecco, nonostante che gli dicessero in continuazione alza il volume, alza il volume, alza il volume, e la polizia diceva ma no, abbassa il volume. Insomma, allora siamo quasi al termine di questa nostra trasmissione. Noi... visto che parliamo di morte, dai, vai, prosegui. Death Ride dell'Atomium. Allora, questa cosa bellissima. La società Belventura organizza dal 4 all'11 aprile 2009, cioè adesso, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, la discesa dell'Atomium su un filo. Cioè, una discesa di 100 metri appesa a un filo. Vzum! È incredibile, cioè, comunque dice che qua è aperto a tutti quanti e ci sono dei veri professionisti che stanno lì, quindi io non so che fare, costa 25 euro, però insomma la discesa... Ma che ti puoi lanciare nel vuoto come quel nonnetto di 98enne che... Nel vuoto però attaccato a un filo... Beh, cioè. Risparmiate 25 euro, andate al cinema due volte. Assolutamente. Anche tre. E magari soltanto l'ultimo evento, perché è davvero interessante, la collezione Rosendor svela più di 1400 opere che ricordano la vecchia Bruxelles durante il XIX secolo e nel periodo dell'Art Nouveau e dell'Art Déco. Si può andare soltanto su invito, quindi si può accedere alla, all'esposizione, alla mostra soltanto su invito, però a quanto pare ne vale la pena. La mostra apre proprio questa sera, martedì 7 aprile, e termina lunedì 13 aprile. Quindi per quanti non sapessero cosa fare durante queste vacanze pasquali, vi invitiamo a consultare il sito internet rosendorf.be. Ed infine domani sera, per quanti volessero ritornare Erasmus, studenti Erasmus, c'è una festa alla Galleria Louise alla modica cifra di 5 euro dalle 23 alle 5.30 per tutti i ex insomma studenti Erasmus attuali, insomma la vita continua. Purtroppo Tempos sì. Tyrannosaurus Rex e quindi sì, dobbiamo chiudere questa trasmissione. Io abbraccio fortemente Mary D. Giorgia ha rubato il ruolo di Mary D una volta tanto. Devo recuperare, te l'ho detto. Quindi sta rinascendo, sta capito? Sta cambiando pelle. Ringrazio, abbraccio forte Mary D, che è l'anima di questa Brussellando. No, minchino di fronte al sapere di Fiordaliso. E poi che devo fare? Minebrio delle onde armoniche che ci produce sempre la nostra parte del jazz con Paolo e Stefano. Che poi senza qualcuno che organizza da dietro il vetro, senza il nostro pescione dietro l'acquario, non sappiamo cosa fare. Un pescione da aprire, il capitone. Ciao Daniele. Ma questa è un'altra storia. Martedì prossimo. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao. Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.